Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dall'Europa, dove il presidente Juncker ha ricevuto mandato esplorativo, chiamiamolo così, per tentare di formare una maggioranza nel Parlamento europeo per nominare il presidente della Commissione europea. Di questo parleremo, anche perché il premier Matteo Renzi, dopo aver avuto un incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Napolitano questa mattina, è poi volato a Bruxelles e questa sera inizieranno le trattative, chiamiamole così, per arrivare a un accordo sul nuovo Presidente della Commissione europea. È inutile girarci attorno, Renzi è considerato il Presidente del Consiglio in grado di chiedere anche per l'Italia un commissario europeo di peso, perché, lo dicevamo anche ieri, lo hanno detto molti commentatori, è l'unico Presidente del Consiglio in carica a aver ottenuto un risultato intanto così favorevole, ma anche semplicemente favorevole, visto che Angela Merkel ha ottenuto, diciamo, chiamiamolo così, un pareggio risicato, ma non certo un boom elettorale. Lei è appena stata riconfermata, quindi ha tutto un altro tipo di orizzonte, però è chiaro che da queste elezioni europee, che sono state uno tsunami per buona parte dei paesi europei, penso soprattutto a Francia, Gran Bretagna, ma anche Grecia, l'Italia è l'unica in cui il Presidente del Consiglio in carica ha ottenuto non solo un buon risultato, ma un risultato straordinario. Su questo dico subito, noi non siamo abituati a fare endorsement e quindi a supportare, come si dice con un brutto inglesismo, eventuali candidati, ma siccome è abbastanza chiaro che l'Italia potrà chiedere un candidato di peso. Ora, si sono circolati diversi nomi, per carità, quello di Enrico Letta da un lato, ma non solo, però se dovesse essere vero che si apre una finestra per il commissario all'agricoltura, noi abbiamo indicato nella persona del presidente uscente, ormai non c'è più la Commissione europea, De Castro, devo dire, non noi, ma tutti i nostri ospiti, al di là del colore politico, che vengono dal mondo dell'agricoltura, hanno indicato nell'ex ministro De Castro una persona competente, destra, sinistra, non me ne frega nulla. Perché dico l'agricoltura? È chiaro che magari Renzi otterrà un commissario ancora più importante, magari. Però attenzione, l'agricoltura ha il 99% dei fondi decisi a livello europeo, praticamente non esistono fondi nazionali quasi per l'agricoltura, e quindi quello è un tema delicatissimo in cui i paesi del nord nel passato hanno fatto, tra virgolette, dei danni anche all'Italia. Ecco, ottenere quel commissario, ce la sentiamo anche di indicare un nome, poi verremo smentiti, chi se ne frega, ma è meglio essere trasparenti che far finta, sarebbe importantissimo per l'agricoltura italiana, per la tutela del Made in Italy, per spostare un asse verso anche, diciamo, quelle che è l'Europa mediterranea e la tutela dei prodotti dell'Europa mediterranea, e per ricordarsi che l'agricoltura è un asse portante anche di questo paese, visto che il 99% dei fondi sono in mano a Bruxelles. Detto ciò, e chiuso con questo inutile ma almeno trasparente endorsement, andiamo avanti con le altre notizie della giornata. Ci occuperemo della Cassa di Risparmio di Genova, il sospetto che tutto non si esaurisse con il ruolo di Berneschi, della nuora, del commercialista, dell'immobiliarista, dell'avvocato, noi ce l'avevamo, e in effetti la maxi truffa, la Cassa di Risparmio di Genova, si sta trasformando in uno tsunami che rischia di coinvolgere anche pezzi da 90 nella magistratura ligure. La Procura di Genova infatti ha inviato a Torino tutte le intercettazioni nelle quali banchieri, ma anche immobiliaristi e prestanome, quelli insomma arrestati e ai domiciliari giovedì scorso, chiamano in causa almeno 4 fra giudici e PM, quali presunte sponde nella loro ricerca di protezioni e soprattutto di informazioni segrete, perché sembra che ci sia tutto un via vai di informazioni che uscissero dalla Procura di Genova. Allora, era un sospetto, però insomma è strano, visto l'ammontare dell'operazione, visto che questo gioco chiamiamolo così, che questo furto di cui sono accusati Berneschi, ma anche appunto Ferdinando Menconi, numero uno del comparto assicurativo Carige Vita, e poi l'immobiliarista Ernesto Cavallini, dicevo, l'operazione si chiama Mungi la mucca e già fa capire quale fosse l'approccio di queste persone nei confronti della banca, ma il sospetto che qualche appoggio esterno vi fosse, che, insomma, che troppi occhi siano rimasti chiusi in questi anni, questa è una certezza. Insomma, sta prendendo sempre più piede. Infine parleremo, come annunciato, anche della Francia, perché in tutta questa vicenda il tema francese è un tema delicatissimo. Ieri sera il presidente François Hollande si è rivolto ai francesi, ma dal voto ha detto è emersa una verità dolorosa, ahimè, se è dolorosa per lui. E cercheremo di capire quali possono essere le posizioni con cui Hollande cercherà di uscire, se ci riuscirà, dall'angolo in cui è stato messo, crollando al 13,98%, una delle più grosse sconfitte nella storia del Partito Socialista francese, mentre appunto il Front National ha avuto quasi il 25% e i neogollisti sono al 20%, quindi sono preoccupati anche i neogollisti in Francia, non solo i socialisti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve, a partire dalla borsa. Allora, lo spread italiano è stabile a 159 punti, al 2,97% il rendimento dei nostri BTP, quindi sotto il 3%, buona notizia. E la Spagna resta in una posizione migliore della nostra, a 148 punti base, con il rendimento dei bonus a 10 anni che è al 2,86%. La borsa, dicevamo, oggi un po' di correzioni, ma ieri Milano era nettamente di almeno 3 punti percentuali la migliore delle borse aperte. Oggi perde lo 0,40, mentre Parigi guadagna lo 0,18, Francoforte lo 0,50, Londra più 0,45, l'America più 0,45%. Tra i titoli, molto bene di nuovo Mediaset più 2,90%, la Pop Milano più 2,20, Atlantia più 1,70, Fiat più 1,30 come ST Microelectronics, Mediolanum un più 1,1, Banco Popolare più 1 come il Monte dei Paschi. Il fronte opposto invece, Finmeccanica meno 2 come Autogrill, A2A meno 1,80, Saipem meno 1,70 come Ubibanca e Jux. L'1,5 lo perdono Terna e Ferragamo, ma anche Pirelli. Prismian, l'ex Pirelli Cavi, perde l'1,40% come Enel Green Power e World Duty Free. Citiamo anche Telecom meno 1,25, CNH meno 1,20, Luxottica meno 1%. L'euro è a quota 1,36,18, quindi leggermente più debole, sicuramente vicino a quota 1,36-1,35,9. Resta sempre un euro forte, noi diciamo spesso che un rapporto di cambio accettabile con l'America dovrebbe essere di 1-1, troppa grazia, di un euro a 1,1, ma insomma un euro che è del 36% più forte del dollaro è troppo, non rispecchia i rapporti di forza, visto che c'è un'America che ha ripreso a crescere e in Europa cresce solo la Germania e qualche stato satellite, mentre Francia è a zero, Italia ancora in recessione nei primi tre mesi, la Spagna un leggero recupero ma con percentuali minime. Beh, lo dico, perché faccio questo ragionamento sull'euro? Perché oggi il mitico ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il falco dei falchi, potentissimo ministro, ha detto, sarebbe disastroso pensare che l'area euro sia uscita dal tunnel della crisi. Le assicuro, Schäuble, che qua non lo pensa nessuno con i numeri che abbiamo. Ma comunque, ha aggiunto, i paesi devono continuare a fare le riforme, giusto, e non nascondersi dietro la politica monetaria della Banca Centrale Europea, perché fare affidamento sulla Banca Centrale Europea potrebbe far perdere ai paesi l'appetito per le riforme. Sì, diciamo che non mancano mai i tedeschi di ricordare quanta paura hanno di una banca centrale europea che faccia la banca centrale come le altre al mondo, che garantisca in ultima istanza i debiti dei paesi e i debiti anche delle banche. Ma c'è una frase mitica, dice il potentissimo ministro tedesco delle finanze: l'euro non è troppo forte. Allora, con il ragionamento che abbiamo appena fatto, dimostra che Schäuble, come parte dei tedeschi, vivono rispetto al resto d'Europa in un altro mondo, nel senso che per molti paesi l'euro, che vale il 30-36% più del dollaro, è troppo forte, e secondo me non sta in cielo né in terra, è dovuto non solo all'Europa, all'America che continua a tenere il dollaro debole più che può per cercare di ripigliarsi, ma dire che l'euro a 1,36 non è troppo forte, vorrei capire quando è forte per la Germania, 1,50-1,60, dimostra lo scollamento tra quello che pensa il ministro delle finanze Schäuble e quello che pensano molti imprenditori europei e non necessariamente tedeschi. Comunque, per questo un grande applauso a Schäuble, perché anche oggi ci ha regalato una chicca, diciamo, sulla distanza che separa Reno e Danubio dal resto d'Europa. Nel frattempo Mario Draghi dice: riporteremo l'inflazione a quasi il 2%. Ma anche perché siamo consapevoli dei rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione, ma sono sicuro che la riporteremo vicino al 2%. Non voglio neanche pensare, ha detto, rifiuta l'idea di alzare l'obiettivo dei prezzi, non voglio neanche pensare cosa significherebbe per la Germania portare l'obiettivo al 5%. Ancora, sempre Mario Draghi ha detto: attenzione, uno dei motivi per cui alcuni paesi dell'area euro hanno un'elevata disoccupazione giovanile è che questi paesi hanno introdotto grande flessibilità, ma solo per i giovani, rendendoli i primi ad essere licenziati quando la crisi ha colpito. E devo dire che l'Italia rientra tra questi. Abbiamo in maniera perversa tutelato, al di là della vicenda tristissima degli esodati, abbiamo tutelato molto chi già aveva un lavoro, magari a maggior ragione se erano in pubblico impiego o magari comunque in alcune funzioni dei servizi, chi aveva già il contratto, e abbiamo precarizzato, ma nel senso di flessibilizzare troppo, l'ingresso dei giovani. Ed è vero che la crisi si è scaricata su alcuni cinquantenni, 55enni e su tutti i giovani di questo paese. Veniamo al tema dell'Europa, anche se voglio dare due notizie. Una molto buona riguarda il tasso di fiducia dei consumatori italiani. Allora, nonostante i dati sul PIL, ecco perché Matteo Renzi spesso dice: ma noi abbiamo degli elementi, che è vero che ormai da mesi continua a salire il tasso di fiducia dei consumatori italiani. Siamo ai massimi dal 2010. Tra l'altro siamo a 106,3 punti da gennaio 2010, lo ha rilevato l'Istat. A trainare per il terzo mese consecutivo il rialzo è la componente economica, quindi i giudizi e le attese sulla situazione economica del paese sono ai massimi, so che può sembrare strano alcuni, da marzo del 2007, e sarà l'effetto Renzi, che vi devo dire. Oggi ha parlato anche Marchionne a margine del ricordo per i 10 anni della scomparsa di Umberto Agnelli al Sestriere. Ha detto: per quello che riguarda gli obiettivi che Fiat si è posta nel 2014 sono tutti fattibili, stiamo facendo passi avanti dovunque. Alfa è la parte più difficile del piano industriale di Fiat Chrysler. Con Landini, numero uno della FIOM, abbiamo avuto un incontro positivo, ma restano preoccupazioni. E non ha voluto fornire alcun dettaglio nuovo, questo l'ha comunicato Landini, però, su Mirafiori e Cassino. E poi ha parlato anche di Renzi, Marchionne, o meglio del risultato elettorale. Ha detto: sono felice di come sono andate le cose, un passo in avanti si comincia da qui. E immagino fosse riferito all'Italia, perché non certo alla Francia o alla Grecia, né alla Gran Bretagna. E a proposito delle riforme per rilanciare anche l'economia del territorio, oggi il neogovernatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, intervistato da Simone Spezia, Effetto Giorno, ha avanzato l'ipotesi di utilizzare, per creare una ripresa dell'economia e anche maggiori posti di lavoro, di azzerare l'IRAP per alcuni anni alle nuove imprese che dovessero scegliere di investire in Piemonte. Guardi, l'obiettivo principale è quello che io definisco scrivere il segno più a fianco della parola occupazione, cioè il lavoro, invertire la tendenza che purtroppo va avanti da troppo tempo di posti di lavoro che si distruggono e non si creano. Quindi per fare questo le leve sono tante, la prima, diciamo, più immediata è quella dei fondi europei, sono 3 miliardi di fondi strutturali che dobbiamo entro luglio mettere in portare a conquistare con un piano al governo che sia credibile, che non sia dispersivo. Poi c'è il progetto di garanzia giovani, che è finalmente un progetto di gestione moderna del mercato del lavoro. Bisogna investire molto sulla sburocratizzazione della pubblica amministrazione. Penso anche che si possa ragionare su un progetto che, diciamo, per alcuni anni azzeri l'IRAP per le imprese che si impegnano, che investono in Piemonte, per le nuove imprese che si costruiscono in Piemonte. Così appunto Sergio Chiamparino, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo che alcuni stanno contestando i dati sulla fiducia dei consumatori. Oh ragazzi, sono dati diffusi ogni mese dall'Istat, so benissimo che molti mi dicono l'indice è fuffa, a livello commerciale tutto è fermo, da fine marzo la situazione sta peggiorando, vedremo poi con le vendite al dettaglio. Io però, cioè, non è che posso non dare i dati dell'Istat che fa un monitoraggio mensile sulla fiducia dei consumatori. Nel frattempo restiamo sui temi europei, ma che riguardano anche l'Italia, perché poi c'è la presidenza della Commissione, ma ci sono tutti i commissari europei in gioco. Poco fa Renzi è arrivato a Bruxelles e fin qua, insomma, è una notizia così marginale. C'è invece in collegamento il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Buonasera Sergio. Buonasera. Allora, partiamo e andiamo con ordine. Vorrei far ascoltare intanto che cosa ha detto Nigel Farage, uno dei vincitori di questa competizione europea, nel senso che il suo partito, assolutamente euroscettico, anzi lui proprio nell'euro la Gran Bretagna manco c'è, ma lui per l'uscita proprio dall'Europa, ha superato i laburisti e anche i conservatori, tra l'altro creando un disastro elettorale per i liberal al 7%, forse penso il minimo storico nei liberal britannici. Farage che dice no, Juncker non lo voteremo mai, è un fanatico degli Stati Uniti d'Europa e non capisce che il progetto dell'euro è sbagliato, occorre che qualcuno lo riconosca. We've just had a quite dramatic European election. Abbiamo appena avuto drammatiche elezioni europee con l'avanzata di nuovi partiti euroscettici ed estremamente nazionalisti. Una vasta gamma di partiti, dal centro, dalla sinistra, dalla destra. Il Parlamento ha ora in sé una nutrita voce di dissenso, eppure, come ho sostenuto davanti a tutti, non si pensa affatto a quanto successo domenica. Tutto va avanti come sempre e il nome di Juncker è la prima proposta sul tavolo come prossimo presidente della Commissione. In un momento in cui sta crescendo l'opposizione al progetto europeo e al concetto di centralità, viene proprio proposto il nome di un uomo che rappresenta e sostiene tutto questo. Così appunto Nigel Farage, ma c'è anche Sergio Nava, oggi Le Monde a dire che il premier Hollande è assolutamente contrario a un'ipotesi della Lagarde, di Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, alla Commissione Europea come commissario. Non ne vuole sapere di candidare la Lagarde alla testa della Commissione Europea. Secondo me Hollande qualche altro problema ce l'ha in questo momento. Comunque, Sergio, come vanno le consultazioni? Se ho ben capito, Jean-Claude Juncker, candidato del Partito Popolare Europeo, che è quello che ha la maggioranza comunque nel Parlamento Europeo, ha avuto il mandato, diciamo così, noi lo chiameremo mandato esplorativo per vedere se si riesce a formare la maggioranza attorno a un nome, possibilmente diciamo il suo, ma non solo. Prego. Sì, esatto, è anche la prima volta che questo succede, quindi siamo ancora in un settore abbastanza inesplorato a livello di Unione Europea, cioè, ed è un meccanismo che assomiglia sempre più a un meccanismo nazionale, dove il capo dello Stato dà un mandato esplorativo al premier incaricato di formare un governo. Qui vagamente comincia a somigliare, cioè oggi il Parlamento Europeo, e quindi tecnicamente non i capi di Stato, però il Parlamento Europeo, per forzare la mano ai capi di Stato, dice: Juncker, prova a formare una maggioranza parlamentare, coagula questa maggioranza, se ce la fai il Parlamento Europeo farà pressioni perché tu sia il prossimo Presidente della Commissione Europea. Però già stasera, cioè tra un'ora e mezza, qui al Palazzo Justus Lipsius i 28 leader europei, tra cui Renzi, cominceranno le loro negoziazioni, e non è così scontato che possa essere poi Juncker il nome, anche se insomma, si diceva fino a pochi giorni fa che oggi non si sarebbe tecnicamente discusso di nomi, ma di modalità con cui può arrivare alla designazione, perché poi la designazione vera e propria la fanno i capi di Stato. Allora andiamo, ricordiamo passo per passo le prossime mosse, quindi le prossime scadenze per arrivare diciamo a un nome. Sì, diciamo oggi sì, appunto, il Parlamento Europeo ha dato mandato esplorativo a Juncker, che nelle prossime settimane farà questa esplorazione e cercherà di formare una maggioranza al Parlamento Europeo. Stasera i leader faranno la loro mappa. Le scadenze importanti a questo punto sono la costituzione dei gruppi parlamentari a giugno qui a Bruxelles, ma soprattutto a fine giugno i leader europei dovrebbero dare questo nome, cioè dovrebbero indicare questo nome. Il nome che uscirà dal vertice di fine giugno di Bruxelles, il vertice europeo, dovrà essere votato a metà luglio, quindi già in semestre italiano, semestre presidenza italiana, dal Parlamento europeo. È chiaro che se i leader disattenderanno le indicazioni del Parlamento si rischia una clamorosa bocciatura del candidato presidente della Commissione e tutto diciamo torna. Cioè, praticamente i leader possono indicare anche un nome diverso da quello diciamo avrebbe raccolto la maggioranza del Parlamento. Il problema è che o poi i vari gruppi parlamentari votano come vogliono i leader, e lì è un po' difficile perché sono spesso di partiti anche opposti all'opposizione rispetto ai leader, o se no si rischia di avere un'indicazione di un nome che viene poi trombato dai parlamentari europei. Ecco perché la cosa migliore sarebbe che l'indicazione che arriva dal Parlamento trovasse anche la mediazione. A questo punto è tra i nomi diciamo che fornirà il Parlamento, perché immagino che non andrà solo su un nome, e i nomi che potrebbero arrivare dai capi di governo, e vedere appunto dov'è il punto di caduta su questo, perché altrimenti rischi veramente la figura per cui è un Parlamento europeo che non vota il nome proposto dai capi di governo dei vari partiti. Per cui è un'ulteriore perdita di credibilità dell'Europa, chiaramente a cascata. Certo. Diciamo molto dipenderà anche da una negoziazione. Un'ipotesi potrebbe essere Juncker che diventa presidente del Consiglio europeo, lasciando spazio a qualcun altro alla Commissione. Quindi in realtà siamo in piena fase negoziale. Il Parlamento potrebbe anche cambiare nome. Dopo il metodo e la pubblicità, vorrei invece, siamo ancora in una fase assolutamente iniziale. Tu hai ben spiegato che questa sera vi sarà il primo incontro tra i capi di governo in cui inizieranno a essere svelate alcune carte, perché come sempre in questi casi può essere che uno si tenga il nome buono per ultimo, di solito chi gioca a totonomine fa così e vengono bruciati altri nomi prima, e poi ci sarà da qui a giugno, e entro luglio bisogna arrivare alla votazione. Però mi interessa dopo il metodo capire quali sono i nomi, chi appoggia chi, ma anche sul fronte dei commissari europei, perché insomma non è un mistero per nessuno, lo dicevamo prima, che essendo Renzi il Presidente del Consiglio che ha avuto il maggior successo in assoluto e che è molto distante anche da quello di Angela Merkel, che non è esattamente un successo ma è un pareggio, l'ho chiamato io, insomma, Renzi arriva a Bruxelles con la forza di un risultato straordinario dal punto di vista elettorale da Presidente del Consiglio in carica, unico di quelli che sono Presidente del Consiglio, e vorrà far pesare immagino anche il voto europeo. Il toto nomine mi fa schifo come termine, ma chiamiamolo così. Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 17:39 minuti. Allora, al di là di Nigel Farage e le sue dichiarazioni, Sergio Nava, chi c'è dietro Juncker, cioè chi appoggia la candidatura di Juncker? E soprattutto mi scrive un ascoltatore, ma guardi che nel rapporto Merkel-Renzi non ha alcuna rilevanza la grande votazione ricevuta da Renzi, sono invenzioni giornalistiche, tanto noi avremo sempre 73 eurodeputati. Allora, che i nostri eurodeputati non cambino è cosa nota. Non so, mi compiaccio per la sua sicurezza e la sua e le sue certezze. A me sembra invece che arrivare a un confronto con i voti che ha preso Hollande sia un po' diverso rispetto a che arrivare con i voti che ha preso, che ha preso Renzi. Oh, e anche la stessa Gran Bretagna è in difficoltà. Poi ognuno la può pensare come vuole. Comunque, Sergio, toto nomine, chi c'è dietro Juncker e sui commissari se Renzi, da quello che si è capito, avrà intenzione di far pesare il suo successo elettorale. Allora, partiamo da Juncker. Juncker tecnicamente, a livello teorico, ha dietro il centrodestra europeo, però non è un mistero che Angela Merkel, che l'ha sponsorizzato, non sia poi così convinta, tanto che spesso circola questo nome, lo dicevi prima anche tu, di Christine Lagarde come terzo incomodo. Alcuni socialisti, ad esempio il primo ministro austriaco, oggi hanno appoggiato anch'essi Juncker. Diciamo che io ho il sospetto che Juncker sì, dica che vuole la presidenza della Commissione europea, però non gli dispiacerebbe fare il presidente del Consiglio europeo, cioè la carica attuale di Van Rompuy, anche perché è un po' il suo acquario, lui nuota più agevolmente tra i capi di Stato e di Governo cui ha appartenuto per quasi 20 anni, e quindi potrebbe anche rinunciare alla Commissione per andare a fare Presidente del Consiglio. Venendo all'Italia invece, allora l'Italia ha un problema, ed è il fatto che ha il Presidente del... Sì, no, diciamo nello specifico il problema è che, avendo Mario Draghi Presidente della BCE, avere un altro, diciamo, un'altra nomina di peso, sono 4-5 le grandi, no, le grandi cariche a livello europeo, diventa un po' difficile avere due italiani, per cui certo, è più probabile che l'Italia possa virare per un portafoglio di peso all'interno della Commissione europea, per esempio gli affari economici, quello sarebbe veramente un gran colpo. Io citavo il commissario all'agricoltura perché sappiamo che il 99% dei fondi sono di emanazione europea. Diciamo quei portafogli come concorrenza, agricoltura, affari economici, che sono poi quelli dove l'Europa veramente ha un peso determinante. Grande, certo. Quindi questa potrebbe essere una soluzione interessante per l'Italia. Per rispondere all'ascoltatore brevemente, è vero, l'Italia a livello europeo ha sempre un po' stentato, però questo è un momento molto interessante per due motivi. Uno è il risultato elettorale di Renzi, due il semestre di presidenza si apre, quindi è una finestra in cui, se Renzi gioca bene le sue carte, può veramente contare in Europa. Sì, perché l'ultimo semestre di presidenza, che io ricordi, anche qui non voglio commenti, fu quello in cui in realtà si creò quella tensione fortissima tra Berlusconi e Schulz al Parlamento europeo, nel discorso di Berlusconi, l'accusa di essere capò, e lì obiettivamente quello scontro, uno la può pensare come vuole, che abbia avuto torto Berlusconi a dire quella frase, soprattutto in quel consesso, oppure che abbia avuto ragione Berlusconi perché è stato provocato da Schulz, non me ne frega nulla, sto solo dicendo che in quel caso questo minò e indebolì tutto il semestre di presidenza italiana. Invece in questo caso abbiamo un Presidente del Consiglio, anche qui, che uno l'abbia votato o non votato non mi interessa, ma che è indubbiamente reduce da un clamoroso successo elettorale, sta per iniziare il semestre di presidenza italiano. Ecco perché, ragazzi, parliamoci chiaro, i voti, come diceva Cuccia, spesso si contano, ma delle volte si pesano pure, e noi abbiamo sempre i soliti 73 eurodeputati, ma abbiamo in questo momento Renzi può vantare un peso diverso. Se poi uno vuole immaginare che i voti si contino e basta e non si pesino, è liberissimo di farlo. Grazie a Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles. I voti si pesavano e non si contavano, mettiamola così, invece alla Cassa di Risparmio di Genova, dove io non ho capito molte cose, non ho capito dove fossero i revisori contabili, non ho capito dove fossero, cioè quelli che devono certificare i bilanci, dove fosse il collegio sindacale, dove fosse il consiglio di amministrazione e dove fossero anche le autorità di vigilanza, incluse la Procura di Genova. È inutile girarci attorno. Tu non puoi mettere in piedi una truffa come quella di cui è accusato Berneschi in primo luogo, ex presidente di Carige, ma anche il numero uno di Carige Vita, Fernando Menconi, l'immobilialista Ernesto Cavallini, poi c'è quell'altro che stava a pescare il Marlin, come si chiama, Cantoni, del genere, con la barca a pescare, ma hanno, secondo l'accusa, rubato per anni, come obbligando la banca a comprare cose a prezzi assurdi. Addirittura avevo letto di una compravendita, poi ci arriveremo, pagata, un immobile pagato 600.000 euro, rivenduto 24 ore dopo a 3.800.000. C'è una cosa che, ma neanche Soros riesce a fare un'operazione del genere. Eppure nessuno vedeva. Qui non stiamo parlando di un'operazione spot in cui hanno rubato e li hanno beccati. Qui stiamo parlando di operazioni come queste, secondo l'accusa, fatte per anni, con un arricchimento personale stimato ora intorno ai 120 milioni di euro da parte, diciamo, di questo gruppo. Voi direte, 120 milioni di euro su una banca sono pochi. Insomma, perché poi nel frattempo è dovuto anche fargli comprare questi immobili. Cioè 120 è quello che loro hanno guadagnato con queste operazioni, ma il danno per la banca è ben più grande. E comunque 120 milioni non sono pochi. L'operazione d'inchiesta, cioè l'inchiesta della magistratura, si sta adesso, se ho ben capito, separando in due filoni. Ce n'è uno nuovo che si chiama Mungi la mucca, è già questo. Facciamo prima chiamarla vacca, veramente, Mungi. Perché la mucca chi era? Era una parte della cassa di risparmio di Genova, la Carige Vita. E vorrei capire con Fabio Pavesi dove si stia indirizzando questo filone dell'inchiesta, dall'altro perché viene chiamato pesantemente in ballo la procura di Genova, visto che nelle intercettazioni tra appunto Berneschi, Menconi, Cavallini e quant'altro vengono citati spesso almeno quattro fra giudici e PM quali presunte sponde nella loro ricerca di protezione ma anche di informazioni. Ora dobbiamo sempre ricordarci che esiste anche il millantato credito, per cui uno può citare, io sono amico di Renzi, ci pensa lui, magari sono un grandissimo ballista, per cui non basta l'intercettazione. Però, Fabio, i due fronti, iniziamo da Mungi, anzi facciamo una cosa, Fabio Pavesi, sulle 24 ore aspettiamo il traffico e poi partiamo da Mungi la mucca, quindi Carige Vita e la procura di Genova, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, la vicenda Cassa del Premio di Genova, giustamente un ascoltatore dice dopo Mungi la vacca, adesso c'è acchiappa la talpa e potrei anche dire chiudi la stalla, visto che i buoi sono ampiamente scappati. Allora, Fabio Pavesi, cos'è il filone Mungi la mucca, non Mungi la vacca, dico io Mungi la mucca, che riguarda Carige Vita e poi invece chiamiamolo pure acchiappa la talpa della procura? Ma sì, ogni giorno che passa ne salta fuori una nuova. Allora, Mungi la vacca, perché evidentemente Carige Vita era un ramo assicurativo da sempre molto debole. E tendenzialmente quando una società assicurativa va male, o perché hai sbagliato gestione o perché evidentemente qualcosa di anomalo è accaduto e quindi forse era più facile ad esempio lavorare sugli immobili, visto che gli assicuratori investono molto in immobili, quindi era probabile che lì fosse più semplice movimentare immobili strapagandoli per creare poi le tangenti per quel gruppo di arrestati. Sul filone talpa, e qui l'indagine è aperta, non mi stupisce, perché Berneschi governava la Carige da 20 anni consecutivi, cioè è entrato come impiegato, ha fatto tutta la carriera nella banca, ovviamente vicepresidente era il fratello Iscaiola, cioè c'era una sorta di potere. Non dimentichiamo anche i rapporti con lo IOR, ad esempio lo IOR aveva solo due titoli. Sì, c'è qua tutto il filone con lo IOR, che cioè è un filone lo IOR, perché ad esempio lo IOR ha in bilancio, aveva storicamente solo due titoli quotati, uno si chiama Cattolica Assicurazione, questo posso capirlo, l'altro titolo era la Carige, cioè non si capisce perché lo IOR comprava solo due titoli quotati, di cui uno si capisce perché, ma l'altro perché Carige connotava gli stretti legami. Tra l'altro lo yacht su Carige ha perso metà dei soldi perché ha dovuto svalutare la quota di Carige. Sì, tra l'altro Papa Francesco avrebbe chiamato i tre vescovi del Ponente Ligure a Roma per chiarire questa vicenda. Perché evidentemente se lo yacht si è comprato quote della Carige, evidentemente c'erano ben altri rapporti in corso con Carige, e vedremo l'inchiesta. Ma il vero tema davvero, al di là delle talpe, al di là dei mungi la vacca, è veramente il danno colossale. Noi ieri abbiamo stimato quanto è stato bruciato, cioè soldi degli azionisti nella banca. La Carige valeva 2 miliardi e 6 tre anni fa, 1 miliardo e mezzo un anno fa, oggi vale 900 milioni. Cioè le banche italiane è un anno che hanno raddoppiato le quotazioni. L'unica banca che ha perso continuamente in borsa è la Carige. Tra l'altro e quindi abbiamo calcolato in 1 miliardo e 6 le perdite di valore di borsa del titolo. Pensate alle migliaia di azionisti che hanno fatto due aumenti di capitale, quindi a Bernanke è andato fiducia, gli è andato quattrini, per poi vedersi praticamente mangiati per due terzi. Questo è il vero dramma. Cioè io non mi stupirei una situazione di consumatori e adisse vie legali di responsabilità di danno, perché insomma il vero tema è se sarà appurato l'inchiesta, Bernanke e i suoi si facevano il tesoretto personale, però ovviamente ha danneggiato la banca. Adesso si è aperto un altro filone a Savona. Allora, adesso arriviamo anche su Savona. Una cosa per andare con ordine, sullo IOR, perché è riemerso anche un episodio mai chiarito, un'operazione finanziaria tra la Banca Vaticana e quella Ligure, la Cariccia Risparmio di Genova, ossia l'acquisto da parte dello IOR di 100 milioni di obbligazioni di Cassa di Risparmio di Genova, che poi la Cassa di Risparmio di Genova si è ricomprata con una perdita di 9 milioni. Poi ci sono delle intercettazioni, perché viene fatto il nome dell'ex segretario di Stato Tarciso Bertone, che è stato arcivescovo di Genova. Ora qua voi capite che bisogna stare molto attenti e essere molto prudenti. Però alcuni suoi stretti collaboratori di Bertone finirono coinvolti, poi prosciolti nello scandalo Mensopoli. Non solo, la regione Liguria, centrosinistra, ha lasciato il posto che le spettava nella Cassa degli Risparmi di Genova alla Curia, che quindi sedeva nella Cassa degli Risparmi di Genova. Ecco cosa dice Bernanke in un'intercettazione: ma guarda che la storia dello IOR la tiro fuori il 1 novembre, amico bello, non puoi regalare tu 9 milioni al Papa, a me non me ne frega un bip del Papa, non c'entra il Papa, al signor Bagnasco e a Bertone, mi segui? Né Bagnasco né il Papa stavano dicendo due che c'entra il signor Bertone. Ora, ripeto, uno può citare l'ex segretario di Stato Tarciso Bertone giusto così perché millanta conoscenza e credito. È vero che Bertone fu arcivescovo di Genova per molto tempo. Allora qui il punto è, e ripeto, non siamo noi PM, capire come per 20 anni tu derubi e depredi una banca senza che la curia che siede nel Consiglio se ne accorga, i PM della Procura di Genova se ne accorgano, i revisori contabili se ne accorgono, il Consiglio di Amministrazione se ne accorga. Ah, insomma, ma voglio dire, che cosa faceva tutta sta gente? Ecco perché il faro viene acceso poi nei rapporti tra IOR e Cassa di Risparmio di Genova, e non prevedo bei tempi per Bertone. Il filone di Savona già mi sembra in difficoltà di suo con la nuova linea di Papa Francesco, ma queste sono altre vicende. La procura di Savona ha inviato un avviso di garanzia a Bernanke, che è ai domiciliari, se ne è beccato un altro. Qui riguarda il crack della Geo, no? Sì. È un'azienda di un costruttore, Nucera, che è emigrato a Abu Dhabi e non è più rientrato, e ovviamente è ricercato dalle procure, e anche lì si è scoperto che tra le banche finanziatrici a piene mani di un costruttore caduto sotto un CAR di 500 milioni c'era proprio la Carige, che sovrastimava la solvibilità patrimoniale di questa persona erogandogli crediti anche quando non doveva. Quindi un altro buco per la banca, che ha fatto un uso scriteriato dei quattrini, finanziando un imprenditore edile che non andava finanziato evidentemente. E siamo sempre nello stesso filone, cioè la banca dava credito facile a persone evidentemente vicine a Bernanke senza assicurarsi che poi questi soldi potessero tornare indietro. Ricordo che il buco di bilancio dell'anno scorso è stato di 1,7 miliardi per la banca. Allora, tra l'altro appunto questo è scappato a Abu Dhabi, ma insomma tutti a Abu Dhabi, a Dubai, a Beirut, io pensavo che quelli fossero posti per andare così a divertirsi, invece sono i nuovi, vabbè, Sono i nuovi rifugi. Grazie a Fabio Pavesi. Allora, a tutti gli imprenditori che in questi anni dalla Cassa del Risparmio di Genova non sono riusciti a ottenere nulla se non lasciando in pegno la casa, la suocera, la moglie e quant'altro, un vecchio revival di questa radio. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Eh sì, a tutti gli eroi quando vanno in banca. Poi l'ABI ci farà sapere cosa intende fare col vicepresidente, che solleciti le dimissioni. Mi sembra il minimo, io non lo so, mi sembra il minimo. Ne parliamo dopo se volete. Intanto c'è il GR24, poi andiamo anche però al fronte complessivo della vicenda francese. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso chiusa la vicenda cassa, chiusa per modo di dire, ma insomma l'approfondimento sulla Cassa di Risparmio di Genova e sui numerosi filoni in cui si sta articolando questa vicenda. Appunto c'è l'operazione anche Mungila Mucca che riguarda la Cassa di Risparmio di Genova Vita, e poi quella la vicenda di Savona. Ma temo che vi torneremo. Adesso andiamo alla borsa. Agenzie però appena uscite, appena battute. Il premier Matteo Renzi, arrivando pochi minuti fa al Consiglio europeo a Bruxelles, ha detto i nomi vengono dopo l'accordo su ciò che dobbiamo fare, prima vengono le cose da fare, gli argomenti su cui trovare un equilibrio, poi i nomi. È sempre Renzi, vogliamo un'Europa che parli il linguaggio dei cittadini. Ancora ha detto Renzi, sono qui a rappresentare uno dei più grandi paesi dell'Unione europea. La borsa, allora, lo spread oggi poco mosso, 159, i rendimenti dei BTP a 10 anni sono sotto il 3%, al 2,94 come ricordavamo, restano 10 punti di differenza con la Spagna, in negativo, nel senso che la Spagna ha uno spread più basso, 148 punti, il rendimento per la precisione del BTP oggi, BTP a 10 anni, è al 2,97%. Milano è l'unica delle borse in negativo, va detto che ieri aveva guadagnato almeno 3 punti in più rispetto alla media delle borse europee, meno 0,40% Milano, più 0,40% Francoforte, invariata Parigi, più 0,40% Londra che ieri era chiusa, e più 0,40% fa anche l'America, anch'essa chiusa ieri per il Memorial Day. Come sempre l'appuntamento della borsa è con i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Alzate un attimo il livello per favore, sento un po' debole Fontana come livello dell'audio. Allora, tra i titoli non ci sono grandi cali, nel senso che il peggiore è Finmeccanica, meno 2,15%, Ferragamo meno 2%, UbiBanca meno 1,90%, Autogrill meno 1,70% come CNH Industrial, Hughes meno 1,50% come Saipem, Enel e A2A, ma anche Terna e World Duty Free, e l'1,30% lo perde Telecom e Prismian, l'1,20% Luxottica, l'1% lo perde Pirelli e anche Intesa San Paolo, Tenaris e Campari. Bene, invece Mediaset più 2,50% come la Pop Milano, Atlantia più 2, ST Microelectronics più 1,30, Mediolanum più 1,1, Fiat più 1,1 e Popolare Emilia Romagna più 0,90%, Mediaset e poi la Pop Milano. Per Mediaset si sta per avvicinare l'apertura, giugno è un mese decisivo su almeno tre fronti, innanzitutto sull'asta per i diritti della Serie A, le offerte saranno da presentare a giugno, vedremo se Mediaset prevarrà su Sky o quali opzioni sceglierà di mettere sul tavolo per assicurarsi i diritti della Serie A, pacchetto importante per la sua Pay TV. Poi ci sarà il riassetto della PTV spagnola, che potrebbe dire parole decisive nel corso del mese di giugno o comunque dell'estate, e una prima indicazione sicuramente la società dovrà darla per quanto riguarda Premium, il possibile alleato Al Jazeera o Vivendi per la PI italiana. Quindi è chiaro che il mercato si sta posizionando. A maggio Mediaset era stata molto penalizzata dall'andamento della pubblicità, ma adesso si sta tornando in maniera importante su questo titolo. La Popolare di Milano ancora reagisce positivamente all'ottimo esito dell'aumento di capitale, 99% sottoscrizioni con l'aumento di capitale a 500 milioni chiuso la scorsa settimana, e da qualche giorno si sta mostrando la migliore delle banche. Oggi bene anche le altre popolari: Popolare Emilia Romagna più 0,94, Banco Popolare più 0,75 dopo la firma dell'operazione dell'atto di fusione con il Credito Bergamasco, già controllata del gruppo Veneto. Allora, ancora sui titoli, tu citavi appunto Mediaset, Popolare di Milano, bene anche Atlantia, e le dichiarazioni Marchionne, gli obiettivi saranno raggiunti, non sono ambiziosi, abbiamo visto oggi c'erano i 10 anni di commemorazione della scomparsa di Umberto Agnelli a Sestriere, Marchionne ha parlato a margine, l'abbiamo raccontato all'inizio del programma, effetto sul titolo? Fiat oggi ha vissuto una giornata positiva, sicuramente con ST è stata la migliore degli industriali, ha guadagnato l'1,1%, bisogna dire che dopo la parziale delusione, almeno per quanto riguarda sul titolo, che era emersa a metà maggio con la pubblicazione del piano industriale, insomma gli analisti, le case di investimento e quindi anche i gestori si stanno un po' riposizionando sul titolo. Qualcuno ritiene che la struttura finanziaria di Fiat sia abbastanza solida per sostenere tutti quegli investimenti che sono stati annunciati, e quindi insomma questo, con le parole di Marchionne, ha fatto sì che il titolo oggi andasse molto meglio del mercato e guadagnasse oltre l'1%. Ancora tre titoli. Oggi giornata abbastanza nervosa per A2A, abbiamo visto il titolo un po' in antrena, meno 1,50% nel finale. Mattina guadagnava l'1% e poi è arretrato progressivamente. Bisogna dire che il mercato è stato un po' spiazzato dalla proposta del management di sottoporre agli azionisti l'approvazione di un pacchetto di acquisto di azioni proprie fino al 10%, soprattutto perché sembra un po' diciamo in contraddizione con l'attenzione principale per A2A in questo momento, che è la riduzione del debito. Ma molti vedono dietro questa mossa, cioè il fatto che la società si mette in pancia delle azioni di se stessa, una mossa propedeutica a un nuovo risico, a una nuova integrazione nel settore delle utility, e che quindi queste azioni possano essere utilizzate come merci di scambio. Quindi da questo punto di vista sarebbe una notizia positiva, ma il mercato insomma è stato un po' nervoso sul titolo per questo. Allora, i migliori e peggiori in assoluto: EMS più 23%, Ceramica Richetti più 21,70%, Friendly Energy più 12%, Edes più 11,80%, Grandi Viaggi più 9,40%, Cell Therapeutic più 6,5%, Brioschi più 6,40%. Fronte opposto invece, Seat Pagine Gialle meno 5,90%, e poi Vita Società Editoriale meno 4,30%. Invest meno 3,80%, Green Power meno 3,40%. Grazie Andrea Fontana, Radio Core, il Sole 24 Ore. Dopo il traffico noi cercheremo di capire soprattutto sul fronte economico e di quello che potrebbe cambiare in Europa, quale sarà l'atteggiamento della Francia nei confronti del rigore europeo, vista la batosta, il tracollo che ha beccato il presidente francese Hollande, ma anche l'altro partito, i neogollisti, e l'affermazione straordinaria di Marie Le Pen. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Chers compatriotes, dimanche, les élections européennes ont livré leur vérité. Miei cari compatrioti, domenica le elezioni europee hanno espresso la loro verità, ed è una verità dolorosa. 6 francesi su 10 non sono andati alle urne. 1 elettore su 4 ha votato per l'estrema destra. È vero, ovunque i partiti euroscettici progrediscono, ma è in Francia, paese fondatore dell'Unione Europea, patria dei diritti dell'uomo, paese delle libertà, che l'estrema destra arriva così ampiamente in testa. L'esito del voto è ben presente, e dobbiamo guardarlo in faccia, ed è quello che faccio. Come interpretare il risultato di domenica? Il voto esprime la diffidenza verso l'Europa che preoccupa più che proteggere. Esprime diffidenza verso i partiti di governo, sia della maggioranza che dell'opposizione. Esprime diffidenza nei confronti della politica, che dopo molti anni di crisi chiede ancora degli sforzi, ma senza che si vedano i risultati. Sarebbe un errore chiudere gli occhi di fronte a questa realtà, e io non lo commetterò, perché esprime la paura del declino. Il mio dovere è ora riformare la Francia e riorientare l'Europa. L'Europa è riuscita da 2 anni a superare la crisi dell'Eurozona, è stata vicina al default. Ma a che prezzo? Quello di un'austerità che ha finito per scoraggiare i popoli. Al Consiglio europeo riaffermerò che la priorità è la crescita, è il lavoro, è investire. L'Europa è diventata incomprensibile, ne sono consapevole, lontana, difficilmente comprensibile per gli stessi stati. Questo non può più continuare. L'Europa deve essere semplice, chiara, per essere efficace là dove serve e ritirarsi là dove non è necessaria. L'Europa elle doit être simple, claire, pour être efficace là où elle est attendue et se retirer là où elle n'est pas nécessaire. Era François Hollande nel suo intervento di ieri in televisione. Le europee, avete sentito, hanno espresso la loro verità ed è stata una verità dolorosa. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E sentiamo anche che cosa ha detto invece oggi la vera e unica vincitrice in Francia, Marine Le Pen. E in un incontro con la stampa chiede di sciogliere il Parlamento europeo e tornare di sciogliere l'Assemblea nazionale francese e tornare a votare. Le peuple souverain a parlé haut et clair. Il popolo sovrano ha parlato forte e chiaro, come succede nei momenti importanti della storia. A tutti coloro che non credono più alla Francia e che pensano che i francesi non sono più degni della libertà e della sovranità, il popolo ha chiarito che vuole riprendere in mano le redini del proprio destino. Il nostro popolo vuole una sola politica, la politica dei francesi, per i francesi, con i francesi. Non vogliono più essere diretti dal di fuori, sottomettersi a delle leggi che non hanno votato e obbedire a dei commissari che non sono passati attraverso il voto popolare. I francesi hanno fissato la prima tappa di questa lunga e necessaria marcia per la libertà, che permetterà loro di ritrovare la sovranità, di liberarsi dalle catene dell'austerità e di ristabilire l'identità offesa. I francesi non hanno solo colpito duramente i partiti rinunciatari, ma hanno conferito al Fronte Nazionale la grande responsabilità di portare avanti le scelte espresse alle urne. È un immenso onore e ne saremo degni. Chiedo al Presidente della Repubblica la dissoluzione dell'Assemblea nazionale perché non è più rappresentativa del popolo francese. Io offro ai francesi il cambiamento radicale della politica economica, offro le protezioni che lo Stato deve ai cittadini e che sono state soppresse dall'UMP e dai socialisti in un quadro di utopia sovranazionale. E che ont été supprimées par l'UMP e le PS dans le cadre d'une sorte d'utopie supranationale. Allora, oggi il ministro alle finanze tedesco Schäuble, quello che si è beccato il nostro applauso all'inizio del programma, potentissimo ministro alle finanze tedesco, falco dei falchi, per aver detto l'euro non è troppo forte, a casa sua, ci dica dove abita, oggi ha anche detto, attenzione, sono molto preoccupato come tanti europei per il Front Nazionale, è estremista e fascista. E ha detto dovrebbero essere preoccupati tutti, non solo i francesi ma anche tutti i politici europei, e immaginiamo, visto diciamo, l'amore che circonda Schäuble nel resto dei paesi europei, che dopo questa dichiarazione la Marine Le Pen abbia preso altri 2 punti percentuali. Ma allora Marco Mussanè, qual è la strategia che potrebbe, su cui potrebbe indirizzarsi Hollande in questo momento? qui molto si dice farà il lavoro sporco che doveva fare l'Italia, quindi appoggerà l'Italia con un Renzi forte della sua investitura elettorale a quasi a mediare con la Merkel. Altri sono più scettici invece che Hollande vada a pressare in maniera netta e molto più forte di come non abbia fatto fino adesso la Germania. Marco. Ma intanto mi sembra che forse sarebbe stato il caso di preoccuparsi prima, adesso mi sembra comunque un pochino... Lo dice a Schäuble o a Hollande? No, lo dico in generale, lo dico a Schäuble, lo dico a Hollande, lo dico a tutti quelli che sembrano stupirsi dalla vittoria appunto dei partiti... Visto che siamo in collegamento eurocritici, con te, diciamo le demi vierge per essere francesi. Ma sì, insomma, mi sembra strano, cioè, vuol dire, il voto al fronte nazionale era nell'ordine delle cose, almeno io parlo di questo paese che forse conosco meglio di altri, un paese in cui come dire, la classe politica non ha avuto assolutamente alcuna capacità di cambiare realmente il paese, di fare le riforme di cui ci si riempie sempre la bocca. È chiaro che poi inevitabilmente quando hai la disoccupazione al 25% per i giovani, hai le aziende che chiudono, hai la bilancia commerciale in profondo rosso, hai il costo del lavoro alle stelle, le aziende che ovviamente delocalizzano, insomma è chiaro che poi la gente vota il fronte nazionale. Forse bisognava pensarti quando si è fatta la legge sulle 35 ore a parità di salario, mentre in Germania si facevano, Schröder faceva le riforme del mercato del lavoro. Insomma, vuol dire, veramente trovo che è abbastanza inguardabile questo spettacolo, quindi capisco il voto al fronte nazionale. Allora, che cosa si può fare adesso? Ecco, ti interrompo perché c'è un'agenzia che ha appena battuto da Bruxelles una dichiarazione di Hollande, sono lì appunto, come abbiamo spiegato ampiamente, per iniziare a capire chi potrebbe essere il nuovo presidente della Commissione. Hollande ha detto, attenzione, l'Europa deve capire che cosa è successo in Francia. Secondo me lo deve capire un po' anche Hollande. Comunque, l'Europa deve capire cosa è successo in Francia. Senza risposte vi saranno altri voti nei paesi europei come quello in Francia. Ti ho interrotto, scusa. Ma va? Ma va quello che hai detto. No, cioè, intendo dire, se uno fa il dirigente politico, si spera che abbia un minimo di cognizione del contesto sociale in cui opera non si sveglia un mattino scoprendo che il paese è diverso da quello che lui sperava, sognava, immaginava. Cioè, ecco. Cosa potrebbe fare? Abbiamo 2 minuti. Ecco, che cosa si può fare ora? Allora, sicuramente lavorare sul fronte a livello europeo, lavorare sul fronte della forza dell'euro sicuramente è una cosa che andrà fatta, ma mi sembra che Draghi stia già operando in questa direzione. Sicuramente un allentamento delle politiche di rigore, di austerità, con un occhio, come dire, mezzo chiuso sul rispetto dei tetti, 3%, 2015, quindi lasciar correre un pochino i deficit per favorire politiche, come dire, di rilancio dell'economia, di sostegno all'economia. E nel caso della Francia specificamente sicuramente delle riforme che però mi rendo conto che, come dire, vanno fatte in un contesto sociale politico sempre più difficile, però vanno fatte perché è un paese con troppa burocrazia, con un costo lavoro troppo alto, con una spesa pubblica troppo alta, ed è evidente, dovunque vai ti accorgi che è un paese che vive largamente al di sopra delle proprie possibilità e che non ha avuto la capacità di cambiare. Questo però va fatto. Allora, una classe politica appunto dirigente, coraggiosa e degna di questo nome dovrebbe sacrificare il consenso dei prossimi 3 anni e davvero riformare e cambiare il paese. Dopodiché, se nel frattempo, come tutti sperano, ci sarà un po' di ripresa, ci saranno di nuovo un po' di posti di lavoro, la disoccupazione scenderà, chissà, magari nel 2017 lo scenario in effetti sarà un pochino diverso e ci sarà un clima, un'atmosfera nel paese meno mefitica. Sì. Però insomma, questo è quello che bisogna fare. Sì, oddio, tu dici a costo di sacrificare un po' di consenso, tanto con le percentuali a cui è sceso, diciamo, ha poco da rischiare. Hollande può solo ricrescere, potremmo dire. Ma mi sembra che tu invece individui in una strategia diversa, quello che potrebbe essere la nuova strategia francese. E in questo non mi sorprenderebbe vedere un Hollande che va a braccetto con Renzi, anche perché la sinistra francese sta ragionando e dice, insomma, il nostro modello è Renzi, è quello che ha saputo fare Renzi in Italia. Tant'è, staremo a vedere. Grazie Marco Mussanè in collegamento da Parigi. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto l'auguro di una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.